l'uomo viaggia solo in un istante contingente, ma io sul cammino incontro te al fianco mio. Ogni cuore cerca amore nel disagio dell'esistenza, ma io alla sera vedo te al fianco mio, al fianco mio. Signore, dici, cercami in te, cercati in me, al fianco mio. Signore, dici, cercami in te, cercati in me. Ogni guerra lascia croci, una tomba oggi è vuota, e io sono al bivio, aspetto te al fianco mio. La tua voce come brezza spezza il pane che sostiene, e io sto in silenzio, ascolto te al fianco mio. Fianco mio, Signore, dici, cercami in te, cercati in me, fianco mio, Signore, dici, cercami in te, cercati in me.